la patrona. Non faccio festa, faccio show. Io non sei quello, mami, spero che Dio guardi e benedica il reggaeton. Tutti i miei amici è la patrona. Che lo muovono, balla su di me che sono comodo. Bevo ste bottiglie baby che sembrano molotov. Non chiedermi dove siamo perché non lo so. Ehi, tu stai a casa triste, io faccio a casa triso. Un tu non l'hai mai vista, frate il paradiso. Rubrico troppe fiche per poterle contare. Che il mio cellulare è più un cellulare, ma quando mi conosci pensi che è tipo, ma dopo due tequila già pensi che è mito. Mentre me la faccio lei dice che è ricco, papi che è ricco, e spero che Dio benedica il reggaeton. Tutti i miei amici è la patrona, yeah. Non faccio festa, faccio show. Io non sei quello, mami, spero che Dio guardi e benedica il reggaeton. Tutti i miei amici è la patrona, yeah. Non faccio festa, faccio show. Io non sei quello, mami, spero che Dio guardi e benedica il reggaeton. Questa notte io lo chiamo papi, solo perché non so come si chiama. Sa tequila, aspetto che ci scaldi, fa 40 gradi, ci infiamma. Qui non si respira, dai, facciamo bocca a bocca. Con lei fa il tuca tuca, con me fa il tocca tocca. La tipa che ti gira intorno fa il cielco dell'oca. Per te non ci sto sotto, stanotte ti sto sopra. E quando mi incontri pensi che tipa, ma dopo due tequila già pensi maldita. Quanto mi diverto, papi che vita, e spero che Dio benedica il reggaeton. Tutti i miei amici è la patrona, yeah. Non faccio festa, faccio show. Io non sei quello, mami, spero che Dio guardi e benedica il reggaeton. Tutti i miei amici è la patrona, yeah. Non faccio festa, faccio show. Io non sei quello, mami, spero che Dio guardi me. FDP LK Love King, ehi, hey.